Ciao a tutte e tutti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui Mauro e Erika di The Festival's Backpack, soprattutto Mauro in realtà in questo giovedì 9 marzo 2023 per raccontarvi un evento che si terrà domani sera, venerdì 10 marzo, al Mercato Sonato, qui di Bologna, un evento carichissimo, prepotente, infatti si chiama Mina Fest perché è una mina, è stato chiamato così proprio per questo, è una mina, una bomba di serata, un evento che porta sul palco del Mercato Sonato, quindi via San Donato, insomma, uno spazio che conosciamo molto bene e che ci piace un casino, porta sul palco ben 5 band e 3 live set, quindi diciamo un totale di 8 artisti tra gruppi e solisti di musica molto varia, molto particolare, molto interessante. Vi diciamo subito che le band sono Le Lame, L'Ultima Fila, Moise, Marrano, Casual Tox, Vinny Maracas, Materazzi Future Club e Francesco Sacco. Insomma, tanta roba, non so se questi nomi vi suscitano già qualcosa, a me alcuni in particolare sì. Comunque, per farveli scoprire un po' di più, abbiamo deciso di intervistare queste band, fare delle piccole domandine ad ognuno di loro per raccontarci un po' chi sono, cosa fanno, cosa portano al Mercato Sonato e fargli ascoltare anche un po' di ottima musica, perché ci sono delle band che fanno della musica veramente strepitosa. Non possiamo farveli ascoltare tutti e 8 perché sennò occuperemmo tutta la puntata di ukulele, cosa che faremmo anche volentieri ogni tanto, ma non è questo il momento, quindi vi facciamo ascoltare alcune cose. Intanto cominciamo subito con le interviste. Le Lame. Il vostro è un pop rock che è un po' un mix di influenze. Potete raccontarci quali sono queste influenze? Beh, senza dubbio possiamo definire il nostro pop rock derivante da molte influenze, sia anglosassoni che italiane. In particolare la batteria mi viene da pensare che sia di matrice americana, una batteria molto ritmata, senza dubbio totale, cioè che va a usare tutti gli elementi, tutte le componenti della batteria, improntata su un forte ritmo, specialmente nell'ultimo brano uscito, Semafori Rossi, e un basso invece più serrato, più inglese. Senza dubbio le tastiere la fanno da padrona nei nostri pezzi perché bucano molto il mix, tastiere che a tratti sono quasi dance, potremmo dire. Le chitarre hanno un po' la funzione di condire, se così posso dire, il mix con dei tappeti sonori, e in tutto questo la voce chiaramente si ispira più invece a un cantautorato italiano, anche un cantautorato indie, perché io che sono il cantante del gruppo ho ascoltato tanto indie italiano ultimamente, quindi sicuramente possiamo parlare di un connubio tra musica anglosassone e canzone italiana. Parliamo invece ora con L'Ultima Fila. Ciao Ultima Fila, un anno fa è uscito il vostro primo disco. Come sta andando e a cosa state lavorando ora? Non è sempre facile fare bilanci quando le cose sono ancora in corso, chiedersi come va, autoanalizzare. Il disco è stato un disco necessario, ma ha avuto una gestazione complicata. Da quando è uscito però le persone che l'hanno accolto si sono affezionate e questo ci ha fatto piacere e ha anche indicato una strada, una direzione per capire dove vogliamo andare. Quindi la cosa che sicuramente vogliamo fare di più è suonarlo il più possibile perché la dimensione del disco soprattutto live, e poi nel frattempo portiamo avanti ancora canzoni nuove per farne sempre di, si spera, più belle. Intanto segnatevi che l'album dell'Ultima Fila si chiama Un Mare alla Volta e continuiamo con le interviste ricordandovi che stiamo parlando del Mina Fest che si terrà domani sera al Mercato Sonato con un sacco di musica, un sacco di band. Andiamo a conoscere invece i Moise. I Moise li avevamo intervistati qui in radio già un bel po' di tempo fa, un paio d'anni fa, E sono una band molto giovane, in realtà in attività da poco, anagraficamente giovane e anche come band molto giovane. Ciao Moise, cosa volete raccontare con la vostra musica? Noi siamo i Moise, con la nostra musica vogliamo urlare gli inni dei disadattati, che facciamo fatti su misura per i disadattati come noi. E oltre a dar voce a questo lato, vogliamo trasmettere una grande energia e una grande voglia di far festa, di saltare, di non pensare a nulla e di sfogarsi e basta. Questo è quello che vogliamo trasmettere con la musica. Insomma, coi Moise abbiamo capito un po' quale sarà l'andazzo della serata, perlomeno nel loro spezzone. Passiamo invece ai Casual Talks. Ciao Casual Talks, nel vostro EP del 2020, che si chiama Sea Talks, quindi un po' un diminutivo del nome della vostra band, ci sono influenze che vanno un po' dal synth pop all'alternative rock. C'è stato anche un recente cambio di formazione. Ecco, allora vi vorrei chiedere in che modo è cambiato, appunto, alla luce di questo cambio, il vostro modo di fare musica rispetto all'EP del 2020. E alcuni di voi hanno anche o hanno avuto altri progetti. È qualcosa che vi portate dietro anche nei Casual Talks? Oh, noi siamo i Casual Talks e adesso vi passo Dani. Ciao, appunto, siamo i Casual Talks. E il nostro primo lavoro in studio è stato l'EP Sea Talks, che contiene 5 brani. Dopodiché c'è stato subito un cambio di formazione abbastanza anomalo, diciamo anche difficile, perché abbiamo sostituito il cantante, che diciamo non è un componente facile da Dovevo sostituire. fare la comparsa nel video e alla fine sono il protagonista. Appunto con Dario, che è lui, che è questo personaggio qui che mi ha appena presentato. E diciamo che col cambio di formazione con Dario abbiamo trovato l'equilibrio che cercavamo, e da quel momento abbiamo iniziato a scrivere insieme in studio, eccetera. E stiamo appunto lavorando ad altri lavori, tra un po' uscirà il disco. Vabbè, sto dicendo già troppo. E tutti veniamo da altri progetti. Dario, per esempio, era, dico era perché adesso suona con noi, quindi non lo deve fare più, non lo può fare più, può suonare solo con noi. Scherzavo, è un bravissimo cantautore. Presento anche gli altri della band, ne approfitto. Ci sono Mirko Nuzzo, Lorenzo Pisanello, Attila Mona, che tra l'altro è mio fratello. E tipo Mirko e Lorenzo suonavano insieme in un altro progetto. Io anche suonavo in un altro progetto, in un'altra band. Io addirittura ho cambiato strumento perché suonavo le tastiere con una band che si chiama The Colors, ora invece suono la batteria. Adesso viveva con Attila Mona. Con Attila Mona. E niente. E ovviamente tutte le nostre, diciamo, i nostri trascorsi, le nostre esperienze musicali avute in passato, ovviamente influiscono nel nuovo progetto, e diciamo che i Casual Talks sono il frutto di tutto quello che abbiamo fatto e che siamo stati fino ad ora musicalmente. Dario, siccome ho parlato bene stavolta, non ho fatto nessun errore, secondo me è il momento di salutare. Noi vi salutiamo e vi invitiamo a venirci a vedere perché voliamo sul palco. Ci vediamo a Bologna. Un abbraccione. Ciao. Ecco, io vi farei ascoltare, come ho detto all'inizio puntata, tutti i pezzi in realtà di tutte le band che stiamo intervistando. Vi farei ascoltare sicuramente anche i Casual Talks se avessimo il tempo. Vi invito caldamente ad andare domani sera al Mercato Sonato perché vi assicuro che mi spiace tanto non potervi far ascoltare tutti, ma c'è tanta roba, tanta, come si dice, carne al fuoco. Tanta roba molto molto interessante. Anche i Casual Talk sono molto interessanti. A proposito di carne al fuoco, passiamo a parlare di carne e ossa. In compagnia dei Marrano, Carne e ossa è il terzo album, il nuovo album uscito il 17 febbraio dei Marrano. E al Mercato Sonato voi portate il vostro rock potente, quasi un po' grunge. Come sta andando l'album e come vi sentite voi in questo momento? Ciao, ciao ai ragazzi e alle ragazze di Radio Città Fujiko e naturalmente ai vostri radioascoltatori. È sempre un grandissimo piacere passare da voi. Mi presento, sono Daniele, dei Marrano, siamo una band di Rimini. E sì, è appena uscito il nostro ultimo disco che si intitola Carne e Ossa, uscito il 17 febbraio, quindi da pochissime settimane, ed è stato prodotto da Divi, Davide Auteritano, bassista e cantante dei Ministri. Siamo molto contenti di questo disco che ha avuto un processo lungo, ma che finalmente ha visto luce e siamo molto contenti perché stiamo avendo degli ottimi riscontri sia dalla critica che dal pubblico e onestamente siamo anche molto, come dire, molto sorpresi dall'affetto e dal supporto che stiamo avendo. È iniziato da poco il nostro tour. Per ora ci siamo mossi tra la Toscana, le Marche e l'Emilia Romagna, poi ci sposteremo anche più a nord, però venerdì è l'occasione per vederci, se avete voglia, a Bologna, al Mercato Sonato, dove per noi è la prima volta, l'occasione è il Mina Fest con altre band, progetti, artisti super interessanti e super fighi, quindi vi aspettiamo lì e vi mando a tutti un caro abbraccio, ciao a tutti, ciao da Daniele. Quindi ribadiamo ancora una volta, venerdì 10 marzo al Mercato Sonato di Bologna, a cui ci saranno anche loro. Adesso ci ascoltiamo Bruciale dei Marrano.